Ieri abbiamo assistito a una grande giornata di mobilitazioni e di scioperi in tutta la Francia. Grandi mobilitazioni nelle grandi città, i 700.000 di Parigi non si vedevano da moltissimo tempo. Avevamo assistito ai 3, 4, 500.000 di Parigi di qualche settimana fa, erano sembrati già una grande mobilitazione. I 700.000 non si vedevano da moltissimo tempo, forse dalle mobilitazioni del 1995, anch'esse contro la riforma delle pensioni, in quel caso vittoriose. Ma ci sono state tantissime mobilitazioni anche nelle piccole città, segno che anche realtà più provinciali, dove la mobilitazione normalmente è più difficile, dove c'è meno abitudine a manifestare e a scendere in piazza, in questo caso si sono mobilitate, così come per la prima volta dall'inizio di questi scioperi e in realtà per la prima volta da qualche anno il settore privato, che non si mobilitava in maniera così forte dagli scioperi di 7 anni fa contro la riforma del codice del lavoro, il Jobs Act alla francese, diciamo. E questa mobilitazione si vede ancora oggi. Già prima dello sciopero, alla fine della settimana scorsa, sono cominciati gli scioperi ad oltranza, soprattutto nelle centrali elettriche, nei terminal del gas e in tanti altri settori strategici. Da ieri molti siti produttivi, anche privati, sono bloccati. Ci sono zone industriali con le barricate e i pneumatici incendiati. Ci sono tangenziali bloccate, c'è l'accesso ai porti, a molti porti che è bloccato, tutte le raffinerie sono bloccate e non distribuiranno carburante e altri derivati fino almeno al prossimo fine settimana. Ma appunto sono partiti, questi sono i primi esempi, gli scioperi ad oltranza, scioperi che si propongono di durare un minuto più del governo e dei padroni e quindi non scioperi puntuali di qualche ora come spesso vediamo in altri paesi, ma scioperi che vanno sulla durata. Per dare alcuni esempi molto concreti, ci sono lavoratori che questa notte hanno dormito nei depositi degli autobus per bloccarli, studenti che hanno dormito nelle facoltà, lavoratori che hanno dormito all'interno di centri commerciali occupati e tutto questo mostra una mobilitazione che continua a ingrandirsi e continua a toccare tutti gli aspetti della società e dell'economia francese. Per il momento gli effetti più evidenti di questo sono sui trasporti. I treni sono fortemente ridotti in tutto il paese, ma anche i trasporti a Parigi stanno subendo grossi problemi. Il telelavoro, in questo caso, che si è diffuso dalla pandemia in poi, aiuta, ma tantissimi lavoratori del commercio, della ristorazione, eccetera, eccetera, che normalmente vivono in provincia dove gli affitti sono più accessibili, hanno grossi problemi a recarsi al lavoro. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli effetti concreti. In passato si è visto a volte, a causa per esempio degli scioperi nel credito, una scarsità di biglietti nei bancomat o di generi alimentari a causa dell'impossibilità di trasportarli nei supermercati. L'impressione è che questa volta si vada verso la stessa realtà. Proprio per questo mi sento di lanciare un piccolo appello, pur conoscendo la realtà italiana fatta di precarietà e di bassi stipendi, la CGT, il sindacato principale, il sindacato diciamo così di sinistra, ha lanciato una cassa di resistenza nazionale per sostenere questi scioperi ad oltranza. Persone che, come immaginate bene, non riceveranno gli stipendio fin tanto che non riprenderanno il lavoro, cosa che può succedere, che può durare anche diverse settimane. Queste persone hanno delle famiglie, hanno degli affitti da pagare, hanno dei mutui. Ecco, piccolo contributo può aiutarli e molto spesso è più valido, vale di più un euro simbolico di solidarietà verso questi lavoratori in lotta che magari cifre più importanti. Anche perché sappiamo tutti che dalla storia del movimento operaio, che se si migliora, se si vince in una realtà, in un posto come la Francia, la situazione della lotta migliora anche negli altri paesi. Sarà più facile anche in Italia poter ottenere finalmente qualche avanzamento dopo tanti anni di arretramenti e di sconfitte.